Gli schiavi di Giobbe giocavano a Shanga. Tieni i pony, la lasci star. Guerrieri con guerrieri fanno zigi zigi zag. Guerrieri con guerrieri fanno zigi zigi zag. Gli schiavi di Giobbe giocavano a Shanga. Tieni i pony, la lasci star. Guerrieri con guerrieri fanno zigi zigi zag. Guerrieri con guerrieri fanno zigi zigi zag. Giocavano a Shanghai.